Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, anche oggi, cari ascoltatori, è il momento di sottoporvi e di sottoporci due progetti che cercano il nostro aiuto, il finanziamento dal basso tramite il crowdfunding. Fammelo pronunciare bene, perché tutte le volte ci scrivono che dico che pronuncio male. È crowdfunding. Però ragazzi, difficile. Non è che uno possa qua a pronunciare la singola parola in inglese stando attento a non urtare quelle di Oxford o quelle di Cambridge. Facciamo quello che possiamo. Siamo o non siamo italiani? Allora, a parte gli scherzi. Oggi però c'è un colpo di scena nel crowdfunding, perché una delle due storie non è raggiungibile al telefono. Quindi non avrà il suo avvocato difensore. Non avrà il suo avvocato difensore. D'altronde. Una delle due storie ve la racconteremo noi. Intanto salutiamo i nostri giurati, che sono Matteo da Padova, che è già intervenuto stamattina. Matteo, benvenuto di nuovo. Buongiorno. Pino da Latina, buongiorno. No, non c'è Pino, è caduto, e allora non ci sono neanche i giurati, non ci sono le storie. Ciao, domani. Non c'è il processo, no, è perfetto. Non c'è il processo. Allora, però c'è una delle due storie e andiamo a raccontarvela. La prima storia si chiama Luna Rowan. È un'iniziativa incredibile, sicuramente non ne avete mai sentito parlare. Si tratta di un forno solare che funziona anche di notte sfruttando il calore accumulato durante il giorno. Lunar Oven potrebbe aiutare moltissime persone nei paesi poveri dove la cottura del cibo è ancora un grosso problema. L'obiettivo è raccogliere 4.500 euro per finanziare la missione di un volontario che realizzi un prototipo in Perù. Ce ne parla Elena Perondi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, buongiorno. Normalmente diamo un minuto di tempo, però oggi il minuto di tempo diventano due, perché... No, beh, questo sarebbe troppo ingiusto. Diamo un po' più di tempo a Luna Rowan per raccontare come e perché sostenere questo progetto, Elena. Ok. Luna Rowan, come avete già accennato, è un forno solare che funziona anche di notte. È un forno ad energia solare ideato dal mitico Giacomo, e come il mare accumula il calore di giorno e lo rilascia in modo lento e progressivo dopo il tramonto. Durante le ore di buio può essere utilizzato per sterilizzare l'acqua, per cotture lente e prolungate. È costruibile in modo molto molto semplice, con materiali poveri e di recupero. Quindi è sostanzialmente eco-friendly, economico e soprattutto autocostruibile. Stiamo raccogliendo i fondi per sostenere la missione dell'eroico Lorenzo, che andrà in Ecuador e Perù, che sono i due paesi che abbiamo selezionato per testare il progetto. Lorenzo è un ingegnere nucleare con una specializzazione in energetica e condurrà degli studi tecnici per ottimizzare i metodi e i materiali costruttivi. Insieme alla comunità locale svilupperà il manuale di autocostruzione, e questo permetterà di rispettare e valorizzare le tradizioni e le abitudini delle popolazioni coinvolte. È sicuramente un progetto molto innovativo, sicuramente perché è solare anche di notte, what else? Mette insieme cose molto semplici per creare un progetto ecologicamente ed economicamente sostenibile, certo, e con un potenziale molto molto elevato di impatto sociale. Cosa avete pensato come ricompense, Elena? Come ricompense abbiamo pensato delle ricompense molto molto cuoricino, quindi daremo dei ringraziamenti sui nostri social network, abbiamo creato una stilla, una cartolina che verrà firmata dal progettista e una maglietta con sì. la nostra almeno luna, una maglietta luna, perché fino alla maglietta insomma io pensavo anche un buono sconto per i primi prototipi prodotti per le prime pizzette che escono ma scusa va bene. No, ma poi ci saranno anche chi sosterrà con un impegno economico maggiore il forno solare, avrà una targhetta di riconoscimento sui primi prototipi. Ah, questo è bello, questa mi sembra bella. Avrà il tipo Carlo, grazie di averci aiutato a realizzare questo forno solare. Ma devo chiederti una cosa, chi è il mitico Giacomo? Perché hai detto è stato inventato da il mitico Giacomo, che sembra un personaggio della settimana enigmistica, e diamogli un cognome se è anche l'inventore. Diamogli un cognome, Giacomo Rossi è un ingegnere aeronautico. In realtà nasce come ingegnere aeronautico, poi si è innamorato degli aspetti ecologici, quindi è stato per molti anni il nostro responsabile del team ambiente portando avanti parecchi progetti in questo ambito. Ed è diventato il progettista di questo forno. Perfetto. Sì, esatto, è un amante dei viaggi, quindi ha viaggiato in molti paesi... da cui ha bisognosi di tanto ispirazione. Adesso però è il momento, adesso però è il momento anche di presentarvi l'altro progetto, anche se insomma il rappresentante che avrebbe dovuto essere qua era una donna, grazie, non è raggiungibile, quindi non potrà difendere il proprio progetto. Esatto, la bottega di Geppetto, ve lo raccontiamo noi, è un laboratorio creativo in provincia di Pisa dove persone bisognose d'aiuto, senza fissa dimora, persone che non riusciranno in quasi nessun caso a ritrovare o a trovare un lavoro, imparano invece a lavorare nel settore agricolo e nell'artigianato, ma anche in altri settori come il riciclo, e per conquistare in questo modo, recuperando un lavoro, l'autonomia personale e lavorativa. Per sostenere la sopravvivenza e la crescita di questa bella realtà servono 6.000 euro. La bottega di Geppetto a Pisa, quindi un inserimento lavorativo in campo agricolo per i senza fissa dimora. Allora, cari giurati che siete all'ascolto, Matteo da Padova l'abbiamo già ritrovato, Pino da Latina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, abbiamo anche sono Pino. Sono qua. Allora, cominciamo proprio da te, Pino, poi dopo ti daremo spazio anche per le altre parole che vorrai lasciarci sul resto della mattinata. Però, quale dei due progetti ti ha convinto di più, Pino? No, la rivoluzione, ecco, la faccio quotidianamente, la faccio. Sì. Anche perché mi danno fastidio le ingiustizie, mi danno fastidio con la spocchia, la strapotenza che ha certa gente, e l'indifferenza, anche questo, che mi dà proprio tanto, tanto, tanto fastidio. Ecco, però vuoi dirci anche quale dei due progetti, Pino, ce n'è uno che ti piace di più, la bottega di Geppetto o Luna Roven, o niente, non te ne frega niente? Ma mi piacciono, tutte e due, vabbè, un voto di qua e uno di là. Matteo da Padova, quale dei due progetti io scegli? Io devo dire la verità, sono in difficoltà nello scegliere perché sono due cause meritevoli entrambe. Sono due belle cause in effetti, sì, molto diverse anche tra loro, però... Sì, però comunque meritevoli entrambe, quindi mi trovo in difficoltà. Abbiamo per la prima volta un doppio ex aequo, quindi con quattro voti, abbiamo due voti da una parte e due voti dall'altra. Accettiamo l'ex aequo anche perché abbiamo per la prima volta la particolarità che l'avvocato difensore di un progetto non si è presentato, quindi direi che andiamo comunque ricordiamo che nessuno dei progetti vince o perde, li ritrovate entrambi sulle piattaforme di Eppela, e ma quindi andate sulla pagina, si può fare sul sito di Radio 24, sulla pagina di Crowd Me Up. E noi ringraziamo Elena Perondi di Lunar Oven, in bocca al lupo per il forno solare, e insomma in bocca al lupo anche a quelli della bottega di Geppetto di Pisa, anche se non sono stati con noi. È tutto per Crowd Me Up, ci ritroviamo sabato prossimo, grazie a tutti. No, la puntata però non è finita, c'è il traffico, no. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori questa mattina anche per sentire i vostri racconti sulla vostra rivoluzione, grande o piccola. Siamo oggi all'anniversario, 49 anni dal 1968, di quale rivoluzione oggi c'è bisogno? E poi dopo c'è anche il campionati italiani di subbuteo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela.